sai che t'amo, non ho che te, mi stai lontano, dimmi perché. La nostalgia non senti in cuore, non ti ricordi di me. Questa mia vita non può durare, tu sei fuggita, devi tornare. Questo mio cuore ti vuole ancora. Perché l'unico sogno sei del mio cuore. Tornerai tu perché senza i tuoi baci languidi non vivrò. Ho qui dentro l'or la tua voce che dice tremando amore, tornerò perché tu hai il mio cuore. Good.